Salve, vuoi su Massimo? This is for the sun. I wanna see you shake that ass. Sei sempre in meglio figure merda ci fatto. Una volta, se sei una partner in amico. Partner. Come dici tu? Ah, compagna voi. Sei sempre in meglio figure merda ci fatto. Cioè, se siamo normali, no? Come quando non sa che partner, no? Nudi. Oh, nudi, si può dire che... Se è sempre meglio figure merda ci fatto. Improvvisamente si c'è caro. Cioè, se si va bene con me, no? Vogliamo fare i giochi d'amore. Dice, tiene sempre capa pazienza. Che gli dici, sì, facciamo i giochi d'amore, facciamo i giochi d'amore. Si mette un coppolietto, è nuda, ci giuretto lui. Ehi, mi è da nascondere. Ehi, mi è da nascondere. Se è sempre meglio figure merda ci fatto. Raise them way up high. Dopo 10 minuti si devi chiamare. Caro Massimo! E niente, non nascevo. Ma mi è piaciuto i giochi d'amore e mi facevo fino all'ultimo giochi d'amore. Roppo mezz'ora se devi chiamare da volta. Strunzo. Dicetti, forse saranno messaggiati. Alla di chiamami amicetti gatti. A me mi chiama Strunzo ca. Sei sempre meglio figure merda ci fatto. Niente di minimo troverò un'ora. Beh, venetti in da cucina, rapetto mop, e mi sputai in faccia. Mi sputai in faccia. Bacio.